questa settimana ho pensato di riportare altri suoni di stagione, peraltro, perché dalla Norvegia troviamo un protagonista scandinavo in note jazz e non solo, un protagonista che ha una sua appartenenza molto molto forte, che condivide con altri spazi, ma lo fa sempre mantenendo una personalità molto intensa. Sto parlando di Jan Garbarek, questo viso arcigno sembra quasi un senza offesa, Jan, per carità, sembra un demone scandinavo con questi tratti un po' particolari, intensi, ben definiti. Quindi non voglio certo essere, e ci mancherebbe, l'ombrosiano, però è un commento un po' che va al di là dalla musica, ma che appartiene a Jan Garbarek. E tornando in diretta con altri suoni, lanciamo subito intanto una colonna sonora ripresa da queste sonorità, dal disco 12 Moons, dalla copertina tipicamente SM, e SM di cui parleremo magari in altri suoni di prossime puntate, ha un motivo di riportare artisti nella scuderia appunto SM stessa, che hanno caratteristiche ben definite. Questo aspetto sfocato, ma nello stesso tempo con un ambient jazz che va dalle note allungate all'aspetto visionario. Comunque Jan Garbarek, classe 1947, norvegese, compositore, sassofonista, suona il tenore e il soprano, è un compositore che va dal jazz alla musica classica con intersezioni alla world music. Troveremo anche questi motivi di dialogo con altri musicisti. Ho visto Jan Garbarek dal vivo con Trilok Gurtu e anche con Zaki Hussein, che certamente hanno dialogo con Jan Garbarek, pur mantenendone, come ho detto, una sua personalità. Bandiera, musicista oltre che norvegese, bandiera della SM, praticamente ha pubblicato tutti i suoi dischi già dalla fine degli anni 70. Ha uno stile di ispirazione, se vogliamo, con note allungate, molto visivo, note lievi e nello stesso tempo da paesaggio lunare. Utilizza toni acustici, utilizza note lunghe, note sostenute anche da un aspetto molto evocativo. E intanto da questo disco, uno degli ultimi che ho avuto di Jan Garbarek, che con Jan Garbarek Group ascoltiamo 12 Moons. Thank you. tra le collaborazioni di Younger Barak facciamo un salto indietro e ascoltiamo questo disco dove sentite il pianoforte di Kay Jarrett. Oltre a Kay Jarrett, le sue collaborazioni sono con diversi musicisti. Il trio più Kay Jarrett, oltre che il frontman Younger Barak, vede due musicisti scandinavi alla ritmica, Paul Danielson e Jan Christiansen, rispettivamente al contrabbasso e alla batteria, dal disco Belonging. Diciamo che se la musica algida può avere un calore, certo, è ritrovato nelle note di Younger Barak, personaggio schivo, molto, molto austero, molto impegnato nel suo lavoro, sperimentatore, compositore che si ispira profondamente anche alle melodie folk della Scandinavia. È un'eredità anche dall'influenza di Albert Ayler, musicista d'avanguardia. Un pioniere della composizione, se vogliamo chiamarlo ambient jazz, anche se non mi piace tanto questo termine. E a tale proposito, oltre che lavori come stiamo ascoltando, trame che rifiutano connotazioni tradizionali o temi particolarmente classici a favore di uno stile che è descritto dai critici come impatto scultoreo, ecco, in questo caso già più condivisibile. Ha diviso la critica anche, una minoranza della quale lo ha definito, pensate un po', un musicista new age. Altro termine improprio per Younger Barak, insomma, le collaborazioni, vi ho detto, anche un'estensione con altri territori, e qui appunto li conosciamo con Zakir Hussain e anche con Trilok Gurtu, sempre per un disco ECM di cui vi parlerò a breve. Abbiamo portato tre brani per una piccola monografia in altri suoni dedicata a Younger Barak, compositore norvegese. Visto la stagione, insomma, abbiamo dato una colonna sonora raffinata anche alle note di altri suoni. Intanto la formazione si sta componendo per il Move to Groove dedicato a questi giocatori che a volte vengono ritenuti egoisti, no? I grandi realizzatori. Servono quattro palloni per giocare con uno come lui. È sempre così o c'è qualcosa che non è esattamente di appartenenza a una modalità di gioco come nell'immediato viene così proposta o criticata? Bene, faremo dei parallelismi anche con la quotidianità e con esempi di grandi campioni che hanno ricevuto queste critiche. Intanto qualche minuto con Jan Garbarek, con questo disco, come vi ho detto, le collaborazioni, certo un folk tradizionale scandinavo, un aspetto visionario, una colonna sonora per la Scandinavia, allo stesso tempo un jazz contemporaneo dalle note allungate. Qua lo troviamo con Shankar al violino, Zakir Hussein alle tabla e alle congas e Trilok Gurtu alla percussioni. Jan Garbarek, ovviamente il frontman di questa formazione che arriva da tutto il mondo, Garbarek Hussein Gurtu e Shankar, Song for Everyone. E con questo conclusa la piccola monografia su Jan Garbarek e tra pochissimo il Move to Groove di oggi, imprevedibile martedì 23 aprile. A tra poco.